In molti paesi, organizzazioni laicali si battono per maggiore indipendenza da Roma e per la creazione di una chiesa locale orientata in modo nazional-democratico. In ciò il Vaticano è dipinto come una dittatura ed il Papa come uno che, con piglio autoritario, impone le sue posizioni. A uno sguardo più attento si nota in realtà la crescita delle forze centrifughe piuttosto che di quelle centralizzanti, si nota la crescita della rivolta piuttosto che della solidarietà con Roma. Questa guerra tra indirizzi diversi, che dura oramai da decenni, non ha in realtà già da tempo causato una sorta di scisma all'interno della Chiesa Cattolica? Innanzitutto direi che il Papa non ha il potere di imporre nulla. Il suo potere consiste unicamente nel fatto che ci sia condivisione e nel fatto che le persone comprendano questo. Formiamo una stessa cosa. E il Papa ha un compito che non si è dato da sé. Solo se c'è questa condivisione, l'insieme può farcela. Solo nella condivisione della fede comune la Chiesa può anche vivere comunitariamente. Ricevo tante lettere da gente semplice e da personalità illustri e mi scrivono: con il Papa siamo una cosa sola, per noi egli è il vicario di Cristo e il successore di Pietro. Ne sia certo, crediamo e viviamo in comunione con lei. Vi sono poi naturalmente, e non da oggi, le forze centrifughe, la tendenza alla fondazione di chiese nazionali che poi effettivamente sono state create. E tuttavia proprio oggi, nella società globalizzata, nella necessità di una interiore unità della comunione mondiale, diviene evidente che in fin dei conti si tratta di anacronismi. Diviene chiaro che una Chiesa non cresce chiudendosi nel proprio guscio nazionale, separandosi, richiudendosi in una data cerchia culturale che si assolutizza, ma che la Chiesa ha bisogno di unità, che ha bisogno di qualcosa come un primato. Ho trovato interessanti le parole del teologo russo ortodosso John Meyendorf, che vive in America, il quale, riferendosi all'ortodossia, ha detto che il problema più grande è rappresentato dalle autocefalie. Avremmo bisogno, dice, di qualcosa come un primate. E questo viene affermato anche in altre comunità. Le difficoltà della cristianità non cattolica, sia da un punto di vista teologico che da quello pragmatico, sono largamente riconducibili anche alla circostanza che essa non possiede alcun organo di unità. Così, anche da questa prospettiva diviene chiaro che un organo di unità è necessario, un organo tuttavia che chiaramente non agisca in modo dittatoriale, ma a partire dalla profonda comunione di fede. Le tendenze centrifughe continueranno ad esserci, ma lo sviluppo della storia, la freccia che indica la direzione, ci dice questo. La Chiesa ha bisogno di un organo di unità.